che loro oramai siamo pedine da muovere e basta. Vabbè, pedine da muovere la magia. Fino a un certo punto, voi potete vedere dove arrivano, capite? Potete vedere dove arrivano. Vedrai tu, il fine dove succede, aspetta, spendo qualcosa. Praticamente fatto male, come si dice, non si potrava niente, cazzo. Se si lavora già va bene, non ci sono problemi, importante lavorare. Proprio diretto, non ci stanno problemi, gatto gatto. Va bene, va, io vi saluto, io, se no cazzo più mi addormento, non vi saluto neanche. Ciao Gianni, Natalino, Antonio Bombo. E tutti quelli che sono all'ascolto, vai. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Avanti già. Ciao Claudio, buonanotte, ne approfitto anche io per salutare, sto andando a letto anche io che mi sto addormentando. Ciao a tutti e buonanotte. Mamma, va, opzioni a tutti, dai, anche io sono uguale, proprio per andare a letto, qui ti avvisi, eh? Mamma, va, saluti, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, buonanotte, a domani, dai. Ciao Claudio, ce la risentiamo, gappa.